9 in punto di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buon lunedì e buona settimana a tutti. Oscar Giannino, non preoccupatevi, tornerà domani con la sua rubrica e con la sua capacità di parlare delle cose. Oggi parliamo tra di noi, parliamo di internet, parliamo tra di noi perché tra i nostri ospiti c'è anche Daniele Bellagio, responsabile della redazione online del Sole 24 Ore, insieme ad altri ospiti che vi presenterò dopo. Parliamo di internet, ma non tanto dal profilo tecnologico quanto dal profilo personale, psicologico, quasi sociale, di come usiamo la rete, di come usiamo questo grande mezzo di comunicazione che, non dimentichiamolo, solo da 15-16 anni è entrato nella nostra vita, ma è entrato sempre più prepotentemente. Come ha invaso i rapporti sociali, i rapporti di lavoro, che problemi crea, che opportunità soprattutto offre. Di tutto questo parleremo tra poco. 800 24 0024 per le vostre chiamate, 349 238 6666 per i messaggi SMS. Buongiorno, eccoci qua a 9 in punto. Come vi dicevo, Oscar Giannino tornerà domani e per tutta la settimana. Oggi Gianfranco Fabi e con me Daniele Bellasio, responsabile redazione online del Sole 24 Ore. Buongiorno Daniele. Buongiorno a voi. E Gigi Donelli, caporedattore di Radio 24. Buongiorno Gigi. Buongiorno agli ascoltatori, ospiti a tutti. Arriveranno nei prossimi minuti. Parliamo di internet, parliamo di questa grande rete. Abbiamo parlato con Alessandro Milan prima di intercettazioni soprattutto telefoniche, ma anche internet costituirà sicuramente un problema di intercettazioni, ma non vogliamo parlare di questo, vogliamo parlare della rete, una rete che ha cambiato la nostra vita, anche se forse non ci riflettiamo abbastanza, meno di 20 anni fa non c'era. È un fenomeno che è esploso e ormai chi è su internet, e tutti noi possiamo in qualche modo essere su internet, può essere raggiunto da 2 miliardi di persone e un pubblico potenziale che cresce in maniera esponenziale. Allora internet è una grande rete, è una grande opportunità, ma è anche un rischio, è anche qualcosa che condiziona la nostra vita, che cambia il nostro modo di essere, di rapportarci con gli altri, il nostro modo di lavorare nelle aziende, all'interno dei mondi in cui viviamo. Come cambia questo mondo? Quali sono i rischi? Quali sono i pericoli? Quali sono le opportunità? Ne prendiamo spunto oggi iniziando da una novità. Da oggi il Sole 24 Ore ha un sito rinnovato. Chiediamo a Daniele Bellasio, ricordo responsabile della redazione online del Sole 24 Ore, se è solo un cambiamento estetico o c'è una filosofia nuova dietro questo sito. No, è sicuramente un cambiamento filosofico che peraltro, come dire, recepisce quelli che sono i cambiamenti della rete. C'è una forte affermazione dell'identità, perché in questa fase sulla rete si ricerca l'identità dell'informazione, la selezione, la capacità dei giornalisti di fornire l'informazione che serve e nel migliore dei modi. In questo senso il sito rinnovato del Sole 24 Ore è un unico in Italia, negli aspetti positivi come negli aspetti coraggiosi. Non c'è nessun metro di paragone, nel senso che non assomiglia a nessun altro sito di informazione. Questa è stata la nostra prima scelta, e questo per valorizzare testo, immagini e correlati, e per valorizzare la professionalità dei giornalisti dell'intero gruppo del Sole 24 Ore, che sono capaci, o almeno questa è l'ambizione, di selezionare al meglio nel mare magnum della rete quelle che sono le informazioni che servono ai professionisti, ma in generale alle persone che hanno molti interessi, sia per gli aspetti professionali sia per gli aspetti della vita personale. Quindi un sito strettamente legato all'attualità, di profondo aggiornamento, ma insieme a questo sfruttando in fondo le due potenzialità della rete: il fatto di avere l'immediatezza dell'informazione, ma il fatto di avere anche la possibilità di un'estensione di questa informazione con un approfondimento che coprirà i classici settori del Sole 24 Ore, ma che sono appunto quelli dell'intera attualità, Bellasio. Sì, assolutamente. Ogni articolo è come l'inizio di un percorso, infatti ha un titolo e una grande foto spesso, e il lettore può entrarci e può scegliere di seguire quella che è stata appunto la selezione delle notizie fatta dai giornalisti attraverso un percorso, una specie di palinsesto personale delle notizie, perché ogni articolo ha molte porte da seguire. Ovviamente i temi forti, a noi piace dire che vogliamo essere i primi i migliori sui temi fondamentali per il Sole 24 Ore, la finanza, le norme, i tributi, l'economia, ovviamente con una visione globale, perché ormai tutti questi temi non sono più di carattere strettamente nazionale. Con una battuta io ogni tanto dico il sole.com, tutti gli altri sono .it, questo non perché noi non siamo fieri di essere italiani, anzi, ma perché ormai i temi che vengono trattati dal Sole 24 Ore hanno una dimensione sovranazionale. Ecco, Radio 24 ha un sito che è radio24.it, che è un sito che si aggiunge e completa appunto l'offerta del gruppo del Sole 24 Ore. Gigi Donnelly, qual è, ricordiamolo in quanto ci ascoltano, la filosofia del nostro sito? Beh, è chiaro che nel momento in cui parliamo di contenuti multimedialità, l'elemento delle parole, del sonoro, dell'audio, del racconto è una parte integrante, a mio avviso ancora non abbastanza, lo sarà di più sicuramente via via che si procede. Dunque, Daniele parlava del testo, del contenuto, dell'immagine, l'immagine che diventa suono quando è un filmato, qui una cultura anche dell'immagine e dell'informazione in cui ci siamo abituati progressivamente. Quello di Radio24.it è naturalmente il luogo dove, altro tema importante, ci si costruisce e ricostruisce l'ascolto radiofonico. Tutti noi conosciamo da un secolo e oltre il flusso della comunicazione radiofonica classica. Bene, il connubio di internet già da qualche anno permette di costruirsi costantemente il proprio accesso all'informazione radiofonica. Quindi Radio24.it è lo stream, naturalmente, è il download ed è l'accesso ai prodotti, ai contenuti che assolutamente non vogliamo perdere, nemmeno quando non siamo in ascolto, perché grazie a internet possiamo posticipare, cambiare il momento del nostro ascolto. Ecco, spieghiamo un po' per per i profani, ma che poi siamo tutti noi, anche queste parole, lo stream vuol dire ascoltare la radio via computer in diretta, invece sì, che vuol dire un flusso, vuol dire sostanzialmente che gli strumenti si moltiplicano. Parliamo naturalmente sempre di computer, in realtà dobbiamo sempre più abituarci all'idea di un ascolto attraverso tutti i dispositivi. Gli italiani, come sappiamo, sono soprattutto dei grandissimi utilizzatori di telefoni portatili, quindi ancora più dei computer. Se poi avremo modo di parlarne, l'Italia è un paese per certi versi anomalo, perché ha un accesso enorme appunto ai dispositivi più piccoli, siamo più fragili in altri settori. Naturalmente questi sono anni in cui i contenuti si muovono attraverso dei dispositivi nuovi e si moltiplicano. Ecco, dispositivi nuovi, tra pochi giorni arriverà questo iPad. Bellagio, ci spieghi che cos'è l'iPad? L'iPad è uno strumento che invita a ripensare il modo di fare informazione. Ovviamente il nuovo sito del Sole 24 Ore ha già una visualizzazione sull'iPad come sull'iPhone rinnovata e molto semplice. L'iPad è una via di mezzo tra tutto quello che abbiamo visto finora, perché può permetterti di navigare su internet in maniera tradizionale, cioè sui siti, può permetterti di entrare nei giornali con i giornali con una struttura tradizionale, cioè sfogliandoli, esattamente come prima sfogliavamo la carta. In questi giorni a New York si vedono già in metropolitana le persone normali come noi che vanno al lavoro sfogliando. L'iPad è in pratica uno schermo di computer, uno schermo di televisore molto sottile, portatile, che può essere usato come telefono, come visore appunto, per vedere internet, per vedere altre cose, per leggere un libro, per guardare un film, per sentire o vedere un concerto. Quindi è uno strumento di comunicazione estremamente versatile, un po' costoso. Per adesso costerà più di 500 euro, mi sembra. Tra l'altro c'è una polemica perché il Parlamento europeo ha deciso di regalare l'iPad a tutti i suoi componenti come un mezzo indispensabile per essere, per connetterli in rete. Io vorrei presentarvi il primo ospite di oggi, Mario Morcellini. Buongiorno, dottor Morcellini. Non è in linea, è caduto un attimo la linea. Allora proseguiamo il discorso con Daniele Bellasio e Gigi Donnelly su questa appunto, su questa rete che è sempre più importante. Già un paio di sms ci dicono: beh, in fondo è comunque qualcosa che rimane di una minoranza, il 10-15% delle persone, al resto della gente non interessa. Gigi Donnelli già scuote la testa di fronte a questa sì, affermazione. No, non è vero in termini numerici, e naturalmente naturalmente la questione solleva il punto del digital divide, dell'accesso. Insomma, il punto è naturalmente avere un dispositivo anche d'avanguardia per accedere e non avere un accesso in banda larga è di nuovo come avere, no, il vecchio classico, un'auto molto potente e non avere la benzina. Insomma, è un sistema che si costruisce complessivamente. L'Italia in questo senso è anche un paese che per varie ragioni non è sicuramente all'avanguardia. Di fronte a me, per esempio, ho dei dati che riguardano la connectivity in Europa. Insomma, se da una parte abbiamo paesi come la Svezia e il nord Europa che sono estremamente avanti, avanti vuol dire avere accesso a banda larga a scuola, avere accesso in tutte le forme della pubblica amministrazione, non vuol dire assolutamente disporre, diciamo, del proprio giochino elettronico evoluto per diciamo vantarsene in giro, vuol dire effettivamente una trasformazione culturale nell'accesso all'informazione, nella distribuzione dell'informazione, che ha molto a che fare con l'economia, con la capacità anche delle nuove generazioni di porsi su un livello innovativo di comunicazione. 15% è troppo basso. Sicuramente l'Italia, come in tanti altri settori, ha delle differenze enormi tra regione e regione e molti passi devono essere ancora fatti. Certo, quando si parla di digital divide si intende proprio la differenza che esiste tra chi può avere accesso alla rete e chi non ha accesso, per tante ragioni di carattere economico, di carattere culturale, di carattere sociale, di carattere geografico. Anche in alcune zone è difficile anche connettersi. Quando si parla di banda larga, la banda larga è la possibilità di accedere alla rete attraverso degli strumenti che permettono un flusso di informazioni molto forte e molto veloce. Ovviamente internet richiede, appunto, proprio perché ha immagini, ha suoni, ha tanti elementi, richiede di avere dei canali di comunicazione in cui tutte queste informazioni possono scorrere, altrimenti si ha una lentezza anche di processo di accesso, appunto, al sistema informativo, che quasi costituisce un ostacolo. Ma io vorrei girare la domanda anche a Mario Morcellini. Buongiorno, dottor Morcellini. Buongiorno a tutti voi. Docente di Sociologia della Comunicazione alla Sapienza di Roma e preside della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Allora, internet è un fenomeno ancora di elite, oppure può essere considerato ormai qualcosa che, se non coinvolge tutto, comunque è destinato a coinvolgere sempre di più fasce sempre più larghe della popolazione? Dottor Morcellini. Allora, come tutte le domande, soprattutto giornalistiche, è una domanda semplificante, tuttavia può essere provocatoriamente utile per dire una risposta che non è del resto disallineata rispetto a quello che ho ascoltato finora. È molto più importante nell'immaginario, nell'opinione pubblica, nel discorso pubblico sui media, che nell'esperienza sociale, cioè corre più veloce nelle parole, come alcune forme del calcio, che nei fatti e nelle innovazioni quotidiane. Tuttavia è difficile negare anche che sia vera la seconda dimensione, cioè quella di una specie di funzione di mainstream. È vero che nel tempo internet sembra l'unica tecnologia, l'unica piattaforma più esattamente, che possa diventare davvero un baricentro propulsivo di una diversa acculturazione degli italiani, che al momento francamente non c'è. Ecco, quindi è un centro che, diciamo, propulsivo, lei diceva, che può diventare, quindi per adesso è ancora un fenomeno non tanto limitato quanto di certe aree, di certi elementi, però già adesso ha avuto degli effetti di cambiamento. Per esempio la stampa qualche difficoltà comincia ad incontrarla, e si dice perché si guarda più internet che non si legge un giornale. Forse più per il tempo che viene utilizzato per internet, che non perché si cerca su internet, si cercano le stesse informazioni che si cercavano e alcuni cercano ancora, per fortuna, sulla stampa quotidiana. Dottor Morcellini. Allora, intanto completo la frase precedente perché è decisiva nel commento che ha fatto lei, e cioè, da un lato internet ha ancora importanti sacche di arretratezza nella società, anche tra i giovani, e non lo dice quasi nessuno. Dall'altro ha dei centri strategici che sono quelli che vanno al lavoro per la prima volta e una parte della condizione giovanile. Questo fa capire anche il guaio che si è determinato nel rapporto con la carta stampata. Per definizione la rete è multimediale, cioè multicentro, multicontenuti, multitasking, come diciamo noi. È evidente che un contenuto seccamente monotematico e anche un po' monogenere come l'informazione stampata è il primo a rischiare, quindi non c'è dubbio che l'informazione cartacea così come la conosciamo o cambia contenuti e cambia anche linguaggi, oppure è destinata a diventare una enclave di minoranza per commentare più che informarci. Ecco, ma in questa prospettiva rischia anche un mezzo di larga diffusione come la televisione, dottor Morcellini? Certo, certo, non solo rischia, solo nello strano dibattito pubblico italiano in cui chi parla male della televisione ovviamente prende la scossa elettrica, non si dice che dal 1993 la televisione sta perdendo pubblicità, pubblico e soprattutto reputazione tra le culture nuove, per esempio i giovani lo hanno già abbandonata, quindi la televisione è paradossalmente, perché è un multigenere, quindi non condivide la stessa univocità di corde della carta stampata, però è stata la prima a pagare il prezzo, anche perché la televisione generalista, ahimè, in Italia è troppo poco disponibile all'innovazione. Ecco, indubbiamente l'innovazione è qualcosa di profondamente importante in un'evoluzione sociale che è certamente diversa. È interessante notare come molti sms che stiamo ricevendo, 349-238-6666, ricordo anche il numero di telefono 800-24-0024 per le vostre chiamate, ecco, dicevo, molti sms indicano il fatto che in fondo internet riguarda solo il 15% della popolazione mondiale, cosa che peraltro non è del tutto vera se gli ultimi dati parlano di 2 miliardi di persone connesse a internet. Attualmente nel mondo stiamo arrivando a 8 miliardi, non ci siamo ancora, quindi siamo comunque attorno al 25%. Ovviamente una cosa è la possibilità di connettersi, una cosa è una connessione più continua, più continuativa, più aggiornata rispetto alle tutte le potenzialità della rete. Quindi probabilmente quando si parla del 15%, come due o tre ascoltatori fanno dei loro messaggi, si parla di un uso costante, continuo della rete, però già questo 15% è comunque significativo, perché è un 15% ottenuto in 15 anni, ottenuto quasi dal nulla, e quindi è sicuramente qualcosa questa rete non da sottovalutare come potenzialità di informazione, come potenzialità di comunicazione. Io vorrei chiedere appunto a Daniele Bellasio se la prospettiva proprio di un gruppo editoriale come quello del Sole 24 Ore riguarda proprio l'integrazione dei mezzi e riguarda proprio un cambiamento di questi mezzi, tenendo conto che di fianco alla carta stampata, che è qualcosa che ci auguriamo resterà per la sua capacità anche di approfondimento e di consentire al lettore una possibilità appunto di guardare, di approfondire, di fermarsi, di rileggere le cose, e di una flessibilità che ovviamente uno schermo per ora non ha, ecco, se questa integrazione comunque è qualcosa che si svolge attraverso un processo quotidiano di esame e di analisi degli strumenti di comunicazione. Assolutamente, la grande innovazione che internet induce è quella di valorizzare l'informazione di per sé, non lo strumento attraverso il quale l'informazione passa. Cioè, una volta c'era chi produceva l'informazione su carta, chi la produceva su televisione, chi alla radio e chi in vari modi appunto i siti internet. Adesso l'informazione diventa importante di per sé. Bisogna poi scegliere tutti i vari strumenti per veicolarla, quindi noi giornalisti, per dire, e un gruppo importante come il Sole 24 Ore, che ha delle eccellenze assolute e una leadership riconosciuta da tutti sui suoi temi, ha semplicemente il compito di veicolare l'informazione che produce su tutti gli strumenti messi a disposizione. Non morirà affatto la carta, semplicemente la carta diventerà uno strumento di selezione ulteriore dei contenuti e sarà, come dire, trasmessa e portata al singolo lettore anche con modi non di carta, cioè ci sarà il giornale sfogliabile appunto sull'iPad. Quindi per noi giornalisti, secondo me, la prospettiva deve essere ottimista, perché predomina l'informazione, il contenuto, non predomina più lo strumento con la quale l'informazione viene trasmessa. E soprattutto deve predominare il lettore, quello, esatto, che magari in maniera poco elegante viene definito l'utente, ma deve essere poi lui il protagonista, colui che può scegliere, ha la capacità di scegliere tra i tanti mezzi di comunicazione, capacità di informarsi e poi la capacità anche di giudicare che cosa gli è più utile, che cosa può essere più utile alla crescita sociale propria, alla crescita personale e anche appunto alla dinamica di una società che speriamo sia sempre più informata e sempre più capace di fare delle scelte giuste. Molti sottolineano come sempre di più, non solo e non tanto direi, si lasciano i giornali per internet, ma si lascia la televisione. Molti dicono: non guardo più la televisione, guardo su internet quello che mi interessa, posso scegliere, posso guardare, posso fare fare delle scelte secondo le mie esigenze. Altri dicono: beh, l'informazione non cambia nulla nella vita della gran parte delle persone. Prendiamo questa affermazione così com'è, ognuno ovviamente la sua vita la gestisce come vuole, ma se ci pensa l'informazione qualcosa cambia. L'informazione è in fondo relazione, e l'informazione l'abbiamo in tanti modi, anche quando andiamo a fare la spesa e scegliamo un tipo di pane rispetto a un altro. Molti sottolineano il problema tecnologico, il problema delle infrastrutture. La nostra non è uno spazio tecnologico, altri sono gli spazi su Radio 24 dedicati alla tecnologia. Alcuni ci pregano di parlare in italiano, cerchiamo di farlo usando il meno possibile parole straniere, ma ogni tanto, parlando di questi temi, qualche parola inglese sfugge, cerchiamo anche di tradurla. Sentiamo gli ascoltatori. Marco da Milano, buongiorno. Buongiorno e salute a tutti. Grazie. Io volevo, proprio per parlare semplicemente, fare un paragone a costare le vie di comunicazione, l'autostrada, grande via di comunicazione, con la banda larga, comunicazioni quindi di informazione. Perché l'Italia non riesce a rendere accessibili a tutti e quindi gratuito le grandi vie di comunicazione, come l'autostrada e come la banda larga? Non credo che il motivo sia di avere un servizio migliore, perché se io vado in Germania o vado in altri paesi del nord Europa posso viaggiare tranquillamente, gratuitamente, sia su internet che sulle grandi autostrade. Grazie, è più una domanda da rivolgere appunto ai politici, ma indubbiamente ogni paese ha le risorse che ha, decide di spenderle come crede. L'Italia ha creato certamente delle grandi infrastrutture, ma qualcuno che paghi ci vuole. Le autostrade in Italia vanno pagate, in Germania non vengono pagate dalla fiscalità generale. Qualche problema di bilancio l'abbiamo da questa parte e anche dall'altra. Luciano da Udine, buongiorno. Buongiorno, ma se vuole rispondere io al suo telespettatore. Ma dica pure. Allora, perché Telecom Italia per legge detiene il 50,1% di tutti gli armadi di infrastruttura? Ecco perché non c'è una diffusione di banda larga, perché laddove si apre un mercato, per paura di essere derubata dai clienti utenti da altre compagnie, Telecom non apre nuovi armadi, non investe. È una legge di mercato, ma il mio intervento verteva su un'altra cosa. Voi parlate di uno degli aspetti di internet, parlate esattamente della telecomunicazione, delle comunicazioni in generale, ma internet ha avuto diffusione, grandissima diffusione in Italia, per tre motivi. Il primo, nelle fasce di età più giovane, per file sharing, per il peer-to-peer, quindi trasferimento di dati, trasferimento di contenuti. Il secondo, la socialità, i mezzi sociali, quindi i vari Facebook, Twitter e quant'altro, che permettono un'interattività di agorà, quindi di piazza, che attualmente non esiste più fisicamente nei nostri paesi, nelle nostre città. Il terzo è quello che accennate voi, cioè la ricerca di notizie, notizie che sono più facilmente accessibili con uno strumento in casa seduti, piuttosto che andare nei vari posti dove acquistare il giornale, vedere lo spettacolo o avere informazioni di altro tipo, conferenze o quant'altro, quando poi trovo tutto bello, omogeneizzato sulla rete, a volte anche in maniera un po'... Certo. No, la ringrazio Luciano di queste osservazioni. Indubbiamente sul fronte degli investimenti, delle tecnologie, non bisogna dimenticare che siamo ancora all'interno di una transizione da un sistema monopolistico in cui c'era un monopolio di Stato sulle telecomunicazioni a un sistema di libero mercato. La transizione è ancora in corso e le transizioni sono sempre complesse e soprattutto nei periodi intermedi hanno più costi che benefici. Sul fronte di internet, come giustamente con un messaggio ci fa notare di Bortotto, presidente di Asso Provider, internet non è solo un mezzo unidirezionale come la televisione, uno si siede e la guarda, uno va davanti allo schermo, si prende il suo iPad e si sfoglia quello che vuole vedere, ma è soprattutto un mezzo in cui si produce, in cui ognuno può intervenire, può entrare, ovviamente non nei siti ufficiali, però in quelli che vengono chiamati i social network, cioè i mezzi di comunicazione sociale, i mezzi come Facebook, Facebook, che è un sito noto, ma per chi non lo conoscesse è un sito dove ognuno può entrare e mettere quello, scrivere quello che pensa, quello che vuole, delineare la sua identità, crearsi un gruppo di amici. Le email, la posta elettronica è un mezzo diffusissimo, è un mezzo ormai che ha preso piede tra una larghissima fascia di persone, in cui ognuno manda i propri messaggi a chi vuole e il ricevente lo può leggere in tempo reale. Quindi è la novità, la grande appunto originalità di internet, è questa bidirezionalità, che ognuno è anche produttore di notizie, non è solo un colui che accede e deve per forza avere quello che il sistema gli offre. Tra l'altro può accedere a un'offerta vastissima, ma può diventare anch'esso produttore di informazioni. Marco da Trento, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica. Allora, intanto complimenti a lei per aver realizzato un'ottima radio dal vecchio direttore e averla fatta ancora migliore, se ciò è possibile. Detto questo, la mia domanda è questa, riguarda la possibilità di tornare indietro nel tempo nel mondo dell'online, mi spiego. Se io fossi uno storico, volessi avere un quadro dell'Italia di 30 anni fa, potrei acquistare Il Sole 24 Ore, non so, il Corriere della Sera di 30 anni fa, magari Gente oggi, e avere un quadro abbastanza completo. Nell'online questo non mi è possibile. Adesso lasciamo stare che 30 anni fa non c'era, andiamo a 10 anni fa. Come faccio con online avere un quadro completo, uno snapshot per così dire, del mondo di allora? Con i motori di ricerca posso avere dei pezzettini, magari singoli articoli, ma non ho il quadro completo. Mi chiedevo appunto se avete affrontato questo discorso, che penso sarà sempre più interessante man mano che passano gli anni. Beh, innanzitutto la ringrazio della domanda. Innanzitutto può essere un intervento da parte di chi nell'online ha dei siti come i giornali, quelli di mettere a disposizione di chi accede a questi siti anche l'archivio storico dei giornali, quindi rendere molto più facile l'accesso a questi archivi, ovviamente, dato che è un servizio in più, un servizio a pagamento, un servizio che a chi vuole appunto recuperare un'edizione di un giornale, per esempio Il Sole 24 Ore, ha il proprio archivio a disposizione degli utenti a pagamento, può leggere appunto le edizioni del Sole 24 Ore di 20, 30 e anche 40 anni fa. Più in generale, lei dice, è possibile accedere direttamente a dei contenuti della rete che sono stati posti 10 anni fa. Daniele Bellasio. Ma sicuramente questo è il compito dei giornalisti, cioè questo l'ascoltatore coglie nel segno qual è la prossima sfida di noi giornalisti, cioè tentare di raccontare una visione complessiva delle cose, selezionando e dando tutti i contributi possibili ai navigatori, che poi sono i lettori, a, come si diceva prima con la brutta parola, agli utenti, cioè tutto. Alla ricerca, noi non dobbiamo dimenticare che internet non è un contenuto, internet è uno strumento, i contenuti dentro vanno messi, li possono mettere i navigatori, come dicevi tu prima, appunto, possono produrre informazioni o comunque richieste di informazione, ma soprattutto il lavoro del giornalista, il lavoro dello storico, che sarà fatto online presto, come vediamo le enciclopedie che stanno entrando nel mercato del digitale, sarà proprio quello di ricatalogare e rispiegare e riraccontare, a seconda della propria professione, il mondo su internet. I contenuti ce li dobbiamo ancora mettere, perché secondo me, se si può fare un paragone storico, siamo ancora nella fase in cui si sta costruendo la città, come alla nascita dei comuni in Europa. Poi però nella città bisogna metterci le associazioni, i giornali, i partiti, e tutto sarà costretto a riorganizzarsi all'interno della nuova città che è internet. In più, tra queste città e il problema delle infrastrutture fondamentale, bisognerà poi fare le strade, certo, le vie di comunicazione. Anche la radio può avere un ruolo, Gigi Donelli. Assolutamente, ce l'ha già. D'altra parte, in questa città mi piace l'immagine tumultuosa, dinamica, in realtà c'è una quantità di contenuti audio enormi, basta pensare all'archivio di Radio 24, tanto per citarne uno, dove naturalmente si accumulano ore ed ore di informazioni, di momenti chiave anche della nostra vita. È vero, c'è un problema, qual è? È che è talmente tumultuoso la fase che anche gli standard, le nostre capacità di archiviazione, come dire, sono ancora elementi che vanno completamente definiti. D'altra parte, un dato forse utile ricordare: 40.000 web radio in giro per il mondo, almeno indicate, perché poi chissà quante sono realmente, insomma, ci dicono che questa città è quantomeno estremamente vivace. Ecco, una città vivace, diceva, tumultuosa, che qualche volta rischia di creare anche un po' di stress, e per questo abbiamo in linea Federico Tognoni. Buongiorno, dottor Tognoni. Buongiorno a voi. È psichiatra, coordinatore dell'ambulatorio dedicato alle dipendenze da internet presso il Policlinico Gemelli di Roma. Allora, professor Tonioni, ha tanto lavoro? Abbastanza, io mi occupo di dipendenze patologiche in generale, per cui storicamente di tossicomanie, quella di internet come anche quella del gioco d'azzardo sono delle dipendenze comportamentali di cui il panorama psichiatrico italiano da qualche anno si occupa, di internet da circa 7 mesi ha aperto questo ambulatorio. Quindi qual è il tipo medio di persone che riguardo internet che si rivolge a voi? Ma esistono due fasce di età, una di ragazzi più grandi, dai 30 anni in su, che hanno consapevolezza di aver sviluppato una dipendenza, per cui con quel tipo di paziente si lavora molto proprio sul computer e sulla dipendenza, per cui il computer e internet diventano oggetto di una dipendenza patologica, ma la maggioranza dei pazienti in realtà sono adolescenti senza aver la consapevolezza di aver sviluppato una dipendenza, forse non le hanno neanche sviluppata, nel senso che parlare di dipendenza in adolescenza non è corretto, proprio perché l'adolescenza è un periodo di trasformazione della mente e del corpo per ognuno di noi, per cui probabilmente in quel caso è più corretto parlare di tratti psicopatologici da internet, web mediati, a cavallo tra il patologico e l'evolutivo, nel senso che possono essere, e probabilmente lo sono, delle manifestazioni di un'evoluzione del pensiero più che lo sviluppo di una patologia. Ecco, ma è un fenomeno in crescita soprattutto a livello giovanile? Assolutamente sì, tenete presente che e sarà sempre più così la maggior parte delle relazioni tra adolescenti sono mediate dal web, e dato che le relazioni web mediate sono diverse per certe caratteristiche da quelle invece non web mediate, e dato anche che il pensiero si forma, si struttura nella relazione con gli altri, noi dobbiamo mettere in conto un cambiamento del nostro modo di pensare e di comunicare, ma ripeto, non necessariamente patologico, ma sicuramente questo ha creato, ed è forse questo il dato, diciamo, clinico più rilevante, un gap, una distanza maggiore con la generazione dei genitori. Un ecco, po' come forse... se... Il problema molto importante è proprio quello dell'educazione, i genitori di fronte a internet, come educare appunto i giovani, gli adolescenti a sfruttare le potenzialità del mezzo senza diventarne schiavi. Ci fermiamo un attimo, non senza prima citare un SMS, avete parlato per mezz'ora di informazione e non parlate del conflitto di interessi di Berlusconi. Ecco, allora accontentiamo questo ascoltatore, il conflitto di interessi di Berlusconi c'è, è un'anomalia della realtà italiana, forse internet può aiutare anche questo a superarlo, perché internet offre una grande possibilità abbassando proprio la soglia di ingresso e di accesso all'informazione. Quindi di fronte a un problema come quello del conflitto di interessi, internet può essere non certo la soluzione, ma una piccola parte della soluzione. Alcuni ascoltatori attraverso i messaggi SMS 349-238-6666 sottolineavano appunto l'anomalia di un sistema italiano, e tornando appunto sul conflitto di interessi, qualcuno si chiede se non è forse perché ci sia un forte interesse televisivo, che ci siano pochi interventi, pochi investimenti su internet e sulla banda larga. Lasciamo questa domanda appunto tra le possibili domande da fare, indubbiamente qualche ragione di verità può anche esserci, ma torniamo a internet, torniamo al fatto di come noi ci poniamo di fronte alla rete, di come si pongono soprattutto i nostri figli. Ne abbiamo parlato con Federico Tonioni, psichiatra e coordinatore dell'ambulatorio dedicato la dipendenza da internet presso il Politecnico Gemelli di Roma. Allora, dottor Tonioni, il problema educativo ovviamente richiederebbe grandi spazi, ma qualche consiglio utile ai genitori per cercare di portare a una giusta interpretazione di internet da parte dei figli, anche se spesso, si diceva anche prima, sono spesso i figli che insegnano ai genitori come funziona internet. Dottor Tonioni. Non c'è dubbio, perché la distanza che prima descrivevo è proprio questa, nel senso che i nostri figli, me compreso, sono molto più capaci al computer di noi, per cui il dare dei consigli è molto difficile anche per me, perché le stesse difficoltà che io incontro con i nuovi adolescenti all'interno del mio lavoro sono quelle che i genitori incontrano con i propri figli adolescenti. Sicuramente passare da un livello di controllo a un livello di curiosità è una cosa molto utile, perché molto spesso i genitori preoccupati tendono, e questo è anche comprensibile, a controllare i propri figli, ma tutte le volte che controlliamo qualcuno ci allontaniamo inevitabilmente da questo qualcuno e ci confondiamo di più. Riuscire a incuriosirci invece è un qualcosa che appartiene più alla condivisione, all'arricchimento reciproco, e per cui in sostanza i genitori, me compreso come terapeuta e come genitore, dovrebbero mettere un po' in crisi i modelli precedentemente acquisiti per avvicinarsi in maniera più fertile possibile a questi, a questo, diciamo, modo diverso di pensare e di comunicare in atto. Sentiamo due genitori qui presenti, Gigi Donelli. Ma sicuramente chiunque abbia dei figli adolescenti in casa si rende conto di quanto diceva prima il nostro ascoltatore da Udine, l'elemento dell'agorà. I ragazzi vedono soprattutto in queste possibilità il fatto di rimanere connessi, di rimanere collegati, l'informazione probabilmente sullo sfondo, anche se poi l'informazione permea peraltro anche lo stesso Facebook, che da un certo punto di vista è soprattutto uno strumento per organizzare la propria vita, per scambiare, per i commenti, insomma il muretto di una volta. E nello stesso tempo poi è il modo per riportare e segnalare ai propri amici e coetanei degli spunti che vengono dal mondo delle informazioni. Quindi anche in questo senso è vero che gli interessi sono diversi e l'agora predomina, però questa agora è comunque influenzata dal mondo degli adulti. Daniele Bellasio, è inevitabile scontrarsi con internet e quindi cercare di catturarlo. Eh sì, bisogna viverci. Per esempio, appunto, si parlava prima di Facebook, anche noi, il sito del Sole 24 Ore ha molto in evidenza sia Facebook sia Twitter. Su Facebook siamo già a 30.000 contatti. Bisogna usare gli strumenti, come dicevo prima, la città. All'inizio della città il semaforo non c'era, poi a un certo punto si è capito che per far funzionare il traffico forse era meglio autoregolamentarsi e mettere il semaforo. Il problema è che siamo in una fase in cui non si è ancora capito quali tipo di regole internet può decidere di mettersi, chi vive su internet può decidere di mettersi. E apprezzo molto quello che diceva prima il dottore di Roma, perché io tutte le mattine prendo la metropolitana, non per questo ho una, come dire, una passione patologica per la metropolitana. Certo, diventerebbe patologica se io riuscissi a usare come unico mezzo di trasporto la metropolitana. Tutti questi standard sono standard ancora ignoti, è molto difficile cercare di capire come noi porteremo le nostre personalità, i nostri valori, i nostri sentimenti nel nuovo mondo. Certo è, come diceva prima Gigi Donelli, è che questo nuovo mondo, se ci andiamo noi, non sarà poi così diverso dal mondo che viviamo tutti i giorni. Anche perché è un mondo che noi potremmo costruire. Rapidamente due ascoltatori, Gianluigi da Teramo, prego. Sì, buongiorno. Ci dica. Molto rapidamente mi intrigava un paragone, un confronto tra la rivoluzione della stampa di Gutenberg e la rivoluzione del web attraverso internet. La prima ha impiegato anni, sulla sua importanza credo che nessuno abbia a che eccepire, ma al tempo stesso è stata disciplinata attraverso tutta una serie di strutture che l'hanno regolamentata. Mi riferisco alla Chiesa, quindi ai conventi, perché le prime cose che si stampavano erano le Bibbie, le Vulgate. Ecco, però al tempo stesso l'impatto che c'è stato sulle implicazioni didattiche ed educative sono state fortissime e c'è stato il tempo di organizzarle. Oggi la diffusione rapida del web invece consente, banalizzo purtroppo per mancanza di tempo, a un utente di elevata cultura, al di là dell'aspetto tecnologico di saperci fare o meno con internet, di farne un certo tipo di uso, di discernere, quindi di impostare delle ricerche per le proprie utilità. L'utente che invece questi strumenti non li ha, perché la scuola latita, da questo punto di vista l'istituzione scolastica non dà assolutamente nulla, non insegna assolutamente a ragionare. Ecco, questo è un punto importante, io la ringrazio Gianluigi. La scuola e internet. Marco da Roma, rapidamente. Sì, buongiorno direttore, rapidamente. Sempre in tema di rapporto tra informazione e internet posso portare la mia esperienza. Io sono un giornalista che nel 2000, quindi 10 anni fa, ha fondato un giornale proprio pensandolo come stretta integrazione tra carta stampata, quindi informazione offline e online. L'idea è stata, era in anticipo indubbiamente, questa rivista, questo mensile specializzato è entrato in un grandissimo editore italiano, lo è tuttora, io l'ho diretto, sono stato dentro per altri 3 anni, ma proprio questa mancanza di capacità di perseguire questa stretta e di continuare questa stretta integrazione ne ha un po' segnato il destino. Cioè io vedo che al giorno d'oggi è proprio vero, verticalizzare l'informazione diventa l'elemento discriminante di un successo, mentre 10 anni fa e più si pensava un'informazione per un grande numero di lettori, adesso anche la nicchia, parlando dal punto di vista dell'editore, diventa un qualcosa di sfruttabile anche economicamente. Grazie Marco per questa testimonianza. Indubbiamente il mondo dell'informazione sta cambiando anche un po' tumultuosamente, ed è anche un business, può essere appunto un business positivo per alcuni e un business critico per chi non riesce ad adeguarsi a queste nuove potenzialità. Stiamo in conclusione, vorrei da dottor Morcellini, docente di sociologia della comunicazione, solo una battuta sul ruolo della scuola, sul ruolo dell'educazione verso internet. Mi consente anche di ritornare a uno dei primi interventi a proposito del ruolo della politica o dell'economia sulla banda larga. E noi dovremmo sapere che la scuola è il grande conduttore verso la modernità, mentre è stata lasciata, devo dire, drammaticamente a custodire solo la tradizione culturale del passato. Questo è davvero il problema italiano. Abbiamo bisogno di media education e abbiamo bisogno anche di sapere che gli investimenti sulle tecnologie non sono il frutto della crisi economica, ma sono il frutto di una intelligente modello di sviluppo. Può essere aperto o chiuso. Ecco, su queste parole molto importanti, mi sembra, dobbiamo fare un modello aperto. Bisogna avere fiducia e investire sulle nuove potenzialità, investire sull'educazione, investire sulle risorse, investire sugli uomini, avere fiducia che gli strumenti della modernità possono essere al servizio della persona e possono rendere tutte le persone protagoniste, sempre più partecipi in grado di scegliere, in grado di criticare, in grado di avere un'apertura appunto al mondo, certamente con spirito costruttivo ma anche con un forte spirito critico, guardando anche la politica che di critica ne ha molto bisogno. Abbiamo iniziato parlando del nuovo sito del Sole 24 Ore che da oggi è in linea, sito nell'ambito appunto del gruppo del Sole 24 Ore, in cui anche Radio 24 ha il suo spazio e i suoi ruoli. Ricordo anche il sito Radio 24, www.radio24.it, da cui possono essere riascoltate tutte le trasmissioni comprese queste. Ringrazio Daniele Bellasio, ringrazio Gigi Donelli, Mario Morcellini, Federico Tognoni, Fabio Cantadori in regia e Marco Tulli in redazione. Ora la linea al GR. Radio 24, la passione si sente.